America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Tonight I had a very kind call from President Obama and I look forward to working with him to make sure that we move this country forward. Bernie Sanders, beh, qui parlava a Santa Monica in California dopo la sonora sconfitta che ha subito nelle primarie nella West Coast e dice ho ricevuto una chiamata da Barack Obama, giovedì sarò alla Casa Bianca per discutere con lui i temi principali che ho affrontato nella mia campagna, la nostra rivoluzione continua. Allora, due osservazioni. Uno, intanto oggi Sanders è alla Casa Bianca, oggi si incontra con Barack Obama e non sappiamo bene che cosa si diranno, però so per certo che Barack Obama gli chiederà di fare un passo indietro, gli chiederà di ritirarsi magari dopo le primarie che si terranno a Washington la settimana prossima, le ultime primarie. Io continuo a ripetere, le primarie sono finite, la stagione delle primarie americana è finita. L'ultimo supermartedì è stato il 7 di giugno, dunque Washington non cambierà assolutamente nulla. Ma Sanders insiste, questa sua rivoluzione, dice, arriverà fino a Filadelfia. Non so bene per fare che cosa, perché ormai non ci saranno più primarie, non ci saranno più voti, al massimo potrà mobilitare la sua base politica e dire votate o non votate per Hillary, dunque in qualche modo sta negoziando. Ma la cosa che mi interessa oggi a primarie archiviate è che la rivoluzione non è soltanto di Sanders. Abbiamo avuto tre rivoluzioni qui negli Stati Uniti parallele. L'ultimissima rivoluzione, è quella che una donna, Hillary Clinton, ha potuto rivendicare per prima il diritto di correre per la Casa Bianca. Lo ha fatto dopo il voto in California, naturalmente. Insomma, questa è una rivoluzione non da poco, perché cambierà, secondo me, di parecchio la mobilitazione del voto femminile, dunque il posizionamento demografico nel momento in cui si andrà alle urne l'8 di novembre, la data fatidica. Ma c'è una rivoluzione Trump. Non si può non definire Donald Trump un rivoluzionario. Sentiamolo. We are going to make America so great again, maybe greater than ever before. Ecco, Trump ieri ha parlato, ha annunciato che farà un discorso la settimana prossima in cui attaccherà frontalmente Hillary Clinton. Credo che a molti della campagna di Clinton stiano un po' tremando i polsi, perché sappiamo che Trump può essere incontrollato. Diceva anche: cambieremo questo paese, faremo tornare l'America vincente e grande. La sua rivoluzione è una rivoluzione vera, perché non si era mai visto che un candidato prestato alla politica come lui potesse vincere contemporaneamente contro 16 concorrenti, inclusi 4 governatori, alcuni senatori, di più, che potesse sconfiggere in pochi mesi l'intero establishment del Partito Repubblicano e un presidente della Camera, repubblicana naturalmente, del calibro di Paul Ryan, il quale è dovuto andare a Canossa e dire sì, io appoggerò Donald Trump. La rivoluzione di Trump è una rivoluzione molto diversa da quella di Sanders. Sanders è un socialista, punta sulle inuguaglianze economiche, sui privilegi dei politici. Si vanta di aver raccolto milioni di dollari grazie a donazioni medie di $27 e quindi ha screditato completamente un sistema attorno al quale gruppi di interesse fanno donazioni importanti per sostenere dei candidati, e dunque c'è l'idea, la percezione che poi il politico che va a Washington in qualche modo dipende da certe lobby. Ecco, Sanders è il contrario di tutto questo. La sua rivoluzione è una rivoluzione per i giovani, una rivoluzione per coloro che sono degli idealisti, che si sentono ideologicamente impegnati. Trump è il contrario. La sua è una retorica che prevede l'insulto, che aggredisce la correttezza politica e che punta sulla non ideologia, perché alla fine dietro il ciuffo biondo rossastro, perché il colore è sempre un po' indefinito, del nostro Donald, non c'è un pensiero politico. C'è soltanto un personaggio mediatico, un personaggio che porta un cambiamento radicale nella politica americana, perché riesce a dare sfogo all'idea, che può essere comprensibile nell'era del social network, all'idea che un personaggio virtuale, una star della televisione, possa salvare il paese. È riuscito a fare da catalizzatore con questo suo atteggiamento, da catalizzatore per uno spirito di ribellione contro l'establishment, contro la globalizzazione, sentimenti questi contro establishment e globalizzazione covati da tempo dalla classe media, dal lavoratore bianco diseredato dal sogno americano. Insomma, la rivoluzione di Trump è una rivoluzione che è andata a rispondere a certe categorie demografiche americane, riuscendo a toccare un nervo esposto. Ecco, Si dice che Trump può battere facilmente Hillary Clinton. C'è da chiedersi però se i 100 milioni, diciamo 100 milioni circa di americani indipendenti che voteranno a novembre e che determineranno l'esito elettorale saranno pronti a varcare questo ponte trumpiano verso la negazione dei valori storici di questo paese che prevedono il rispetto del prossimo, la trasparenza, la generosità, l'apertura, l'accoglienza di immigrati per integrarli nei core values, in questi valori straordinari di questo paese che risalgono ai padri pellegrini. E la risposta è no, secondo me la risposta è no, questo ponte gli americani alla fine non lo varcheranno. Donald Trump says, let's make America great again, that is code for let's take America backwards. Ecco, Hillary che è già partita l'attacco di Donald Trump, dice ma insomma chi vuole ricostruire la grandezza dell'America sta parlando di un passato che non esiste più, è inutile guardare all'indietro, Trump guarda indietro, il futuro invece è di costruire ponti, non di innalzare muri. Beh, Hillary, ve lo dicevo in apertura, ha fatto storia, la sua rivoluzione è una rivoluzione demografica, una rivoluzione, vi dicevo, che porta emancipazione per tutte le donne americane. I sondaggi ci dicono che la corsa fra Hillary e Donald è molto stretta, 44% per lei, 42% per Donald. Devo dire però che da qui, e lo dico perché ho visto che in Italia qualcuno ha scritto che Donald è fortissimo, che Hillary non val niente, e beh, devo dire, lo scrivono vedendo le cose dall'Italia ma non dall'America, ma io qui per strada o nelle case di americani o parlando con esperti politologi, beh, mi accorgo che le reazioni delle persone oggi sono molto diverse, quella distanza 44-42 secondo me è già più grande nella testa della gente. La rivoluzione di una donna alla Casa Bianca potrà sembrare anche la meno efficace, perché magari qualcuno dice che Hillary non è simpatica, ma in questo 2016 potrà riportare all'ordine la rivoluzione socialista di Sanders, quindi cercare di conquistare i suoi voti e sconfiggere allo stesso tempo la rivoluzione qualunquista di Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di rivoluzioni, rivoluzioni che cominciano, rivoluzioni in corso, questo è stato sicuramente sul piano politico un anno rivoluzionario, e dunque di Steve Earle, The Revolution Starts Now. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.